Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un caro saluto a tutti voi ascoltatori. Eccoci anche in questo mese di luglio all'ascolto della parola di Dio. Come sapete, il nostro percorso di Lectio Continua ci sta facendo percorrere gli Atti degli Apostoli e siamo arrivati ad una svolta cruciale della storia degli Atti, quando la Chiesa apre i battenti al mondo pagano. Siamo esattamente al capitolo 11 e stasera percorreremo non solo tutto il capitolo 11 dal versetto 19 in poi, ma ci inoltreremo anche nel 12° capitolo, vedremo fino a che punto, qual è il punto in cui ci fermeremo. Ecco, vi invito a unirvi insieme a me nell'invocazione dello Spirito Santo perché lo Spirito possa rendere quest'ora e mezzo che insieme condividiamo uno spazio in cui la parola possa parlare non solo alla nostra mente, ma anche al nostro cuore e alla nostra vita. E soprattutto quella che è stata l'esperienza dei grandi protagonisti delle origini cristiane, stasera incontreremo in modo particolare Pietro e Barnaba, possa essere in qualche modo anche la nostra esperienza. Lo Spirito quindi ci assista e come Maria ci renda persone capaci di portare la parola di Dio al mondo. Iniziamo subito leggendo, continuando la nostra lettura degli Atti degli Apostoli e leggendo il primo brano. Se ricordate, la volta scorsa ci siamo fermati nel momento in cui l'Apostolo Pietro, dopo la Pentecoste avvenuta a Cesarea nella casa di Cornelio, era tornato a Gerusalemme. Nella chiesa madre Pietro aveva incontrato un po' di resistenze, non tutti erano d'accordo nel fatto che Pietro era rimasto in casa di pagani e aveva mangiato con loro, un tema questo molto delicato che sarà affrontato ancora più avanti nel racconto degli Atti degli Apostoli. Ecco, subito dopo questo episodio, la scena riprende da dove il narratore degli Atti degli Apostoli l'aveva lasciata esattamente 4 capitoli prima, al capitolo 8, dove era narrata, tra il capitolo 7 e il capitolo 8, dove era narrato il martirio di Stefano. Ascoltiamo quindi il testo, siamo ora al capitolo 11, dal versetto 19 in poi. Invito quanti sono nella possibilità di farlo, di prendere un'edizione della Bibbia tra le mani e di seguire con il testo sotto mano la nostra meditazione. Intanto, quelli che si erano dispersi in seguito alla persecuzione avvenuta al tempo di Stefano, arrivarono fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, predicando la parola soltanto ai giudei. Tra di loro, però, vi erano alcuni di Cipro e di Cirene, i quali, venuti ad Antiochia, si misero a parlare ai greci, portando il lieto annuncio del Signore Gesù. La mano del Signore era con loro, e un gran numero credette e si convertì al Signore. Ecco, 3 piccoli versetti. Vi dicevo che questo brano riprende il discorso che era sostanzialmente rimasto in sospeso al capitolo 8, dove dopo il grande discorso di Stefano, il narratore aveva cercato di sottolineare come pian piano l'annuncio del Vangelo si era allargato da Gerusalemme alla Giudea, dalla Giudea alla Samaria e poi, grazie all'intervento di Pietro, dalla Samaria alle zone pagane, partendo da Cesarea. Abbiamo però imparato a conoscere lungo la narrazione che non tutta la responsabilità è attribuibile a Pietro, cioè Pietro è sicuramente una figura di snodo, una figura di riferimento nel racconto degli Atti degli Apostoli, ma il narratore ha tenuto a sottolineare come il vero protagonista in tutta questa storia non è tanto Pietro, che pur è il protagonista di cui lo Spirito si serve, ma è lo Spirito Santo, è lui che spinge all'incontro con un orizzonte che è sempre più ampio, da Gerusalemme alla Giudea, alla Samaria e al mondo pagano. e che scandisce alcuni incontri particolari. Pensiamo all'incontro di Filippo con l'eunuco etiope, pensiamo all'incontro di Pietro nella casa di Simone il conciatore, pensiamo all'invito fatto dallo Spirito Santo a Pietro di andare senza esitare nella casa di Cornelio, irrompendo poi quando Pietro aveva solo iniziato a parlare. Ora, questa visione che ci mostra lo Spirito Santo come il vero protagonista della missione cristiana, la ritroviamo in questi tre versetti, dove ci viene detto, subito dopo che Pietro ha portato l'annuncio alla prima famiglia pagana, Cornelio e i suoi familiari, dove ci viene detto che non è solo Cornelio che apre le porte della Chiesa al mondo pagano, ma sono tanti cristiani senza nome, tanti primi missionari di cui oggi noi non conserviamo una memoria specifica. Infatti il testo diceva che quelli che si erano dispersi in seguito alla persecuzione avvenuta al tempo di Stefano arrivano in Fenicia, Cipro, Antiochia e predicano inizialmente solo ai giudei, ma il testo dice che tra di loro vi sono alcuni, non ci viene detto il nome, di Cipro e di Cirene, quindi da alcune zone già di periferia, la Cirenaica teniamo presente, era in Nord Africa, le regioni del Nord d'Africa, Cipro e Cirene, i quali venuti ad Antiochia si misero a parlare ai greci. E qui ci sono due varianti nel testo greco, dove i greci non sono tanto i greci che hanno aderito al giudaismo, ma i greci pagani. E quindi l'annuncio, l'apertura dell'evangelizzazione al mondo pagano viene da alcuni missionari anonimi, non solo da Pietro. Ovviamente il narratore ci racconta questo subito dopo che Pietro ha portato il primo annuncio, come dire, la Chiesa ha al suo interno una struttura di servizio dove Pietro è il punto di riferimento e una volta che lui ha aperto la porta tutti gli altri cristiani lo possono fare. Il narratore evidenzia anche quali i segni che permettono di dire che questa azione non viene da un pallino umano ma dalla spinta dello Spirito Santo e sono i segni successivi. Il testo dice la mano del Signore era con loro, un gran numero credette e si convertì al Signore. Il segno sono le folle che aderiscono alla buona novella e soprattutto al di là della quantità del numero delle folle sono i frutti di conversione. I frutti di conversione sono sempre il segno che lo Spirito agisce in un determinato luogo, in una determinata ora della storia, in una determinata circostanza. I segni di conversione. Laddove i segni di conversione non ci sono, vuol dire che anche lo Spirito forse non agisce. E sullo sfondo la persecuzione, ciò che sembrerebbe in qualche misura ostacolare l'annuncio cristiano, teniamo presente che questa persecuzione, come dire, scoppia nel momento in cui Stefano per primo comincia ad annunciare con chiarezza il mistero del regno. E Stefano, lo sappiamo, è il primo martire, il primo che versa il sangue in nome di Cristo alle origini della missione cristiana. Bene, il suo sangue non fa ancora tempo a toccare il suolo che già parte tutta una serie di slancio missionario. E a questo slancio missionario il narratore collega tutta una serie di eventi, l'apertura al mondo giudaico, l'apertura ai samaritani, l'apertura al mondo pagano ed ora l'apertura decisa a questi greci che provengono dalle terre più diverse. Quindi il messaggio è chiaro, laddove c'è il dono pieno della vita non può non fiorire la missione cristiana con tutti i suoi risvolti, una missione che produce conversione, una missione che produce la costruzione di comunità nuove e numerose. Ovviamente questa apertura, se già aveva in qualche modo allertato la Chiesa Madre di Gerusalemme, ora l'allerta ancora di più. La Chiesa Madre, l'abbiamo commentato e sentito la volta scorsa, nel momento in cui Pietro torna da Cesarea a Gerusalemme, sembra quasi richiamare Pietro, sembra quasi rimproverarlo, e Pietro deve giustificarsi narrando per filo e per segno tutto quello che gli è avvenuto. E solo a quel punto la Chiesa si sente pacificata. Ora che la missione è del tutto fuori controllo della Chiesa di Gerusalemme, perché sono alcuni credenti anonimi che portano l'annuncio cristiano, e la Chiesa di Gerusalemme si pone alcuni interrogativi. Primo interrogativo, come vigilare perché l'annuncio cristiano sia portato in modo corretto? Perché è vero che tutti lo possono portare, però è anche vero che per parlare di Gesù occorrono alcune garanzie, ci vuole un minimo di formazione perché quello che si dice su Gesù sia corretto. Secondo, come essere certi che il seme gettato non venga in qualche modo manipolato o ci siano anche in mezzo a coloro che portano l'annuncio del Cristo qualcheduno che se ne approfitti della cosa per un tornaconto personale. E soprattutto, ora che l'annuncio missionario si espande in diverse parti della terra allora conosciuta, come assicurare che le nuove comunità che nascono restino in comunione con la Chiesa di Gerusalemme, in modo che ci sia una sorta di rete dove l'una arricchisce l'altra e dove l'una si consolida attraverso la testimonianza dell'altra. Non è solo un discorso di una preoccupazione dettata dalla paura che l'annuncio del Vangelo sfugge di mano, ma dalla paura di conservare il deposito della fede come il Maestro l'ha trasmesso. Ecco allora la decisione di mandare nella comunità di Antiochia, dove si sta verificando questo grande vivacità missionaria, mandare qualcuno che possa in qualche modo verificare, incoraggiare, tutelare il deposito cristiano. Ma facciamo una breve sosta musicale di 1-2 minuti prima di riprendere il nostro racconto e di ascoltare come continua, cioè come la narrazione spiega l'evolversi dei fatti, quindi un breve stacco musicale. Il racconto degli Atti degli Apostoli continua al versetto 22, siamo sempre al nostro capitolo 11, quindi ascoltiamo il testo, lo leggiamo fino al versetto 26. La notizia arrivò agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme, che mandò Barnaba ad Antiochia. Egli, arrivato e vista la grazia di Dio, gioì ed esortava tutti a essere fedeli al Signore con animo fermo. Era infatti un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede. Una gran folla fu aggregata al Signore. Poi andò a Tarso a cercare Saulo e, trovatolo, lo condusse ad Antiochia. Essi rimasero insieme un anno intero nella chiesa e insegnarono a una gran folla. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Bene, in questi pochi versetti, sono sostanzialmente 5 versetti, ci viene descritto il modo in cui la Chiesa di Gerusalemme agisce in questo momento delicato. E notiamo che la Chiesa Madre si rivela proprio da tutti i punti di vista madre dell'avventura cristiana. Prima di tutto sa scegliere la persona giusta da inviare, cioè da mettere come responsabile di quella comunità. Barnaba, noi lo conosciamo già dal capitolo 5, è una persona che si è distinta soprattutto da un punto di vista, si è distinta per la sua dedizione alla comunità, è una persona che tutto quello che aveva l'ha venduto e l'ha deposto ai piedi degli apostoli, disponibile a mettersi in gioco al 100% per l'avventura cristiana. È una persona quindi che quanto a dedizione Non ha niente, non può ricevere rimproveri da nessuna parte e quindi è proprio la persona giusta da essere come dire, coinvolta nell'avventura cristiana. Il nome stesso di Barnaba significa, sembra quasi evocare, secondo alcune tradizioni, l'esortazione, il figlio dell'esortazione, alcuni ritengono che il suo nome abbia questo significato. Ora, Barnaba si rivela tale, è un uomo che giunto ad Antiochia si comporta secondo tre direttrici. Il testo dice, egli è arrivato, cosa fa? Vista la grazia di Dio, gioì, esortava tutti a essere fedeli al Signore con animo fermo. Quindi tre sono le direttrici del suo comportamento. Prima direttrice, vista la grazia di Dio. Ecco, Barnaba non arriva ad Antiochia con l'atteggiamento di un visitatore, come dire, scomodo, di uno che va a verificare se le cose stanno andando per il verso giusto o il verso sbagliato. Entra nella comunità di Antiochia con un obiettivo, vedere la grazia di Dio. E nel momento in cui uno vede la grazia di Dio, riesce a individuare la strada la strada lungo la quale lo Spirito vuole portare quella comunità. Quindi, primo punto di riferimento per Barnaba, per questo pastore della comunità di Antiochia, è individuare, cercare la grazia di Dio all'interno della comunità, non fermarsi sugli aspetti negativi, ma cercare gli aspetti dove Dio sta operando. Secondo aspetto, gioì, è la seconda dimensione che caratterizza tutta l'avventura cristiana, la gioia. Il Barnaba, nonostante Antiochia stia vivendo una pagina non facile, non solo legata all'espansione della comunità cristiana, ma a diversi fattori, nonostante questo l'atteggiamento fondamentale di Barnaba è quello della gioia. Barnaba gioisce. Teniamo presente che tutta l'esperienza cristiana ha come primo verbo di riferimento quello della gioia. Ricordate l'incipit del Vangelo di Luca, lì inizia l'avventura cristiana con l'incarnazione del Verbo di Dio nel grembo di Maria. Entrando da lei le disse, gioisci figlia di Sion, lì inizia l'avventura cristiana sotto il segno della gioia. E Barnaba ad Antiochia inaugura l'esperienza cristiana comunitaria sotto il segno della gioia. Quindi vide la grazia di Dio, gioì. Terzo aspetto, terza linea direttrice, esortava tutti ad essere fedeli al Signore con animo fermo. Terzo punto è l'esortazione che noi possiamo interpretarla sotto due punti di vista, quella dell'incoraggiamento da un lato e quella dello stimolo di chi pungola, di chi anima la crescita nella fede, quindi l'esortazione come qualcosa che aiuta a crescere, cioè stimola le persone coinvolte a non rimanere ferme lì dove sono, ma a fare dei passi in avanti. Il testo annota che tutto questo è possibile perché Barnaba era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede. Ancora una volta, il vero protagonista, se il lettore non l'avesse ancora capito, non è tanto Barnaba, ma lo Spirito Santo che riempie il cuore di Barnaba. È come dire al lettore, lasciati anche tu riempire dallo Spirito Santo e saprai anche tu vedere la grazia di Dio, provare dentro di te la gioia ed essere motivo di esortazione, perché l'avventura cristiana continui a progredire. Segue poi una scelta. Questo Barnaba si rivela da tutti i punti di vista una persona molto saggia e lungimirante. Il testo ci dice che la prima cosa che Paolo fa, che Barnaba fa, dopo essersi reso conto che ad Antiochia è lo Spirito Santo che sta agendo, c'è veramente la grazia di Dio, la prima cosa che fa è andare a Tarso e cercare Saulo. Come mai questa scelta? Qui dobbiamo tenere presente l'inizio del brano sul quale ci stiamo soffermando questa sera, no? Il brano iniziava dicendo che quelli che erano stati dispersi in seguito alla persecuzione contro Stefano. Teniamo presente che la persecuzione contro Stefano aveva avuto come punto di partenza la classe dei farisei. Ora, tutto quello che sta succedendo è causato da questa persecuzione proveniente dai farisei, e questa persecuzione ha messo sotto sopra anche una comunità come la comunità di Antiochia. Ora, in una situazione del genere, chi meglio di un fariseo persecutore convertito può essere il segno dell'azione del risorto? Ecco allora la decisione: andare a Tarso e prendere Saulo. Saulo era stato mandato a Tarso subito dopo la sua rivelazione sulla via di Damasco. Se ricordate, quando abbiamo commentato il capitolo 9, l'itinerario di Saulo non era stato proprio del tutto semplice dopo la rivelazione sulla via di Damasco, perché dopo la sua conversione la comunità di Damasco aveva avuto un po' di difficoltà a trattenere Saulo, anche perché la presenza di Saulo aveva attirato l'inimicizia dei nabatei. Così dicono gli storici, soprattutto un grande studioso di Paolo come Jerome Murphy O'Connor, ritiene che Saulo, dopo la sua conversione, abbia iniziato subito a predicare nelle regioni desertiche occupate dai nabatei, e lì si era fatto nemici proprio questo popolo che era guidato dal re Areta. Rifugiatosi a Damasco, Damasco era diventato una zona pericolosa, per cui la comunità cristiana di Damasco invitò Saulo ad allontanarsi. Saulo si allontana, dove va? Va a Gerusalemme, dalla Chiesa Madre. E anche lì, entrato a Gerusalemme dalla Chiesa Madre, all'inizio tutti gli battono le mani. Ma quando vedono che Paolo, com'era zelante a perseguitare, così è zelante a predicare, cominciano a essere un po' in difficoltà, perché il suo zelo nella predicazione si attira le inimicizie dei farisei, non solo dei farisei ma anche dei sommi sacerdoti, al che la comunità cristiana di Gerusalemme gli dice: caro Saulo, abbiamo bisogno di un po' di pace, torna per un po' di giorni a casa tua. E quei giorni però diventano mesi, prima, dopo essere diventati mesi diventano anni. E Saulo sembra quasi essere relegato in una sorta di prigione patria, cioè allontanato a casa sua, e la comunità non si preoccupa più di lui. Se non che un giorno arriva Barnaba. Barnaba si ricorda di quest'uomo, sa qual è tutta la sua esperienza, sa che gli anni di lontananza dalla comunità di Gerusalemme sono stati sufficienti per plasmare in lui l'umiltà di ripartire. Ed ecco che lo porta ad Antiochia. Il testo dice: essi rimasero insieme un anno intero nella chiesa e insegnarono ad una gran folla. Barnaba lo unisce a sé nella guida della comunità, in modo che la guida della comunità non sia portata avanti da uno solo, ma da due persone, e non solo lo porta con sé nella guida della comunità, ma insieme insegnano. E qui, ecco, in questo ministero alla comunità di Antiochia possiamo dire che è il momento di grazia particolare per Saulo, perché Saulo, grazie alla fiducia di Barnaba, viene forgiato apostolo. Qui è come vero apostolo delle genti, nel confronto con una comunità come quella di Antiochia. Teniamo presente, la comunità di Antiochia è una comunità dove stanno prendendo posto convertiti sia dal giudaismo che dal paganesimo, e quindi, diversamente da Gerusalemme, dove la comunità è molto più uniforme perché tutte le persone presenti provengono dal giudaismo, ad Antiochia si porranno presto dei problemi di convivenza, che al momento però vengono superati in modo molto semplice e sportivo, cioè le due realtà, le due etnie religiose, possiamo dire, quella che proviene dal giudaismo e quella che proviene dal paganesimo, non manifestano per il momento particolari problemi di convivenza, crescono insieme alla luce dello spirito e alla luce dell'insegnamento che proviene da Barnaba e Saulo. Tra l'altro teniamo presente che anche Barnaba non proviene da Gerusalemme, è Gerusalemme che lo manda, ma proviene da Cipro, una di quelle terre da cui sono partiti i missionari che hanno predicato al mondo pagano. Quindi si suppone che anche in Barnaba, proprio anche per le reazioni che abbiamo visto, ci siano degli atteggiamenti di apertura verso il mondo pagano. L'ultima annotazione che ci fa il narratore sacro è quella di dirci che ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Allora, cosa significa questo nome? Questo nome. Allora, il nome qui ha un significato triplice, importante. Importante per noi che siamo distanti 2000 anni, importante per chi viveva quel momento. Primo elemento è il punto di riferimento. Cristiani significa che coloro che hanno aderito a Gesù cominciano a essere identificati come un gruppo a sé, indipendente dall'ebraismo. E guarda caso questo avviene nel momento in cui cominciano a predicare il mondo pagano. Finché hanno predicato i giudei, il cristianesimo era visto come una setta nuova, un germoglio nuovo nato all'interno dell'ebraismo. C'erano i farisei, c'erano i sadducei, c'erano gli esseni, c'erano questo nuovo gruppo, i cosiddetti nazareni, che facevano riferimento a Gesù di Nazareth, punto. Era quindi una realtà che rientrava, veniva inglobata sotto il grande cappello dell'ebraismo, nelle sue forme più variegate. Ora no, ora il fatto di ricevere questo nome indica che la comunità cristiana sta assumendo una identità indipendente rispetto a quella dell'ebraismo. Quindi cristiani come identità indipendente, staccata per certi aspetti dall'ebraismo, anche se nata al suo interno. Secondo punto importante, il nome dice che al centro di questa identità sta Gesù, ma non Gesù come uomo, solo come uomo, ma Gesù come il Messia, il Cristo, il Signore risorto. Dire cristiani significa già dire all'interno del nome tutto il mistero di passione, morte e risurrezione che ha fatto di Gesù il Messia, il Cristo. Tanto è vero che è proprio questo il cuore dell'annuncio che ha suscitato la persecuzione contro Stefano. Quindi secondo aspetto importante. Terzo aspetto importante, il nome nasce come orizzonte, nell'orizzonte della persecuzione. Gli studiosi ritengono che la finale del nome, Christianoi, ecco questa forma di finale, è una finale che proviene sicuramente non dal mondo ebraico ma dal mondo greco-pagano. Quindi è probabilmente un modo in cui gli aderenti a Gesù il Cristo venivano derisi dal mondo pagano. Era sostanzialmente una forma di derisione, non era un titolo onorifico all'inizio. Probabilmente era un modo in cui questi nuovi credenti erano derisi dal mondo pagano, che poi però i credenti hanno fatto proprio dimostrando la verità che era insita in questo nome. Quindi è un contesto che dice anche persecuzione, derisione, oltraggio. Dietro questi tre elementi c'è l'identità cristiana, un'identità che regge nel Cristo, che è patito, morto e risorto, un'identità che sa essere all'ultimo posto perché è guidata dallo Spirito Santo, un'identità che tiene sempre le porte aperte al mondo pagano. Quindi vedete come in pochi versetti noi abbiamo il condensato di quello che è l'inizio dell'esperienza cristiana. E soprattutto emerge in modo molto bello, molto significativo, il profilo di Barnaba. Barnaba che è veramente un leader della comunità cristiana, nel senso che sa guidare la comunità cristiana nelle vie dello Spirito. Vediamo cosa succede subito dopo, perché anche i versetti successivi, che sono quelli che chiudono il capitolo 11, sostanzialmente questa sera dovremo semplicemente chiudere il capitolo 11, i versetti successivi aggiungono un'ulteriore pennellata a questa scena di apertura delle porte della Chiesa delle Origini al mondo pagano. Ma lasciamo ancora un breve stacco musicale, dopodiché riprenderemo leggendo insieme gli ultimi versetti del capitolo, vale a dire i versetti dal 27 al 30. Riprendiamo quindi la nostra riflessione su questa pagina molto, molto intensa, molto bella degli Atti degli Apostoli, dove la Chiesa delle Origini apre le porte al mondo pagano. Allora, abbiamo visto per adesso un primo momento in cui questi cristiani anonimi cominciano a predicare a greci che non provengono dal giudaismo, subito dopo l'esperienza che ha fatto Pietro a Cesarea nella casa di Cornelio, e in un secondo momento abbiamo visto come la Chiesa delle Origini manda ad Antiochia la figura di Barnaba, che si rivela un vero apostolo da tutti i punti di vista, cogliendo la grazia di Dio, gioendo insieme alla comunità cristiana ed esortando tutti a perseverare nella fede. E uno dei segni più belli compiuti da Barnaba è proprio questo di recarsi a Tarso e rimettere in gioco completamente la figura di Saulo, che diventa insieme a lui la guida della comunità di Antiochia. Cosa succede subito dopo? Leggiamo i versetti dal 27 al 30, e sono i quattro versetti che chiudono il capitolo 11 degli Atti degli Apostoli. In quei giorni scesero da Gerusalemme ad Antiochia alcuni profeti. Uno di loro, di nome Agabo, alzatosi, annunciò per mezzo dello Spirito che ci sarebbe stata una grande carestia su tutta la terra, quella che si verificò sotto Claudio. Allora i discepoli decisero di mandare una colletta ai fratelli che abitavano nella Giudea, secondo quello che ciascuno possedeva, e lo fecero inviando la colletta agli anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo. Allora, interessante, siamo nel momento in cui la Chiesa di Antiochia sta acquisendo una sua identità, questa identità che viene suggellata dal nome che la comunità riceve, il nome di cristiani. Ecco, in questo momento potrebbe esserci il pericolo che la comunità va per conto suo. Da un lato c'è Gerusalemme guidata da Pietro, dall'altro c'è Antiochia guidata da Barnaba e Saulo. Occorre trovare il modo per far sì che le comunità che nascono, soprattutto quelle più significative che fanno poi da riferimento alle comunità più piccole, mantengano la comunione tra di loro. Ed ecco che un'altra situazione delicata, come quella di una carestia, porta un po' la soluzione a questa necessità. Come la persecuzione è un punto di vantaggio perché permette l'espansione dell'annuncio evangelico ai pagani, la carestia è un punto di vantaggio perché nella povertà l'unione tra le chiese si stringe, l'unione tra le chiese si fortifica, e Barnaba e Saulo, che sono saggi, sanno cosa fare. Trasformano il momento della carestia nel momento in cui manifestare la comunione dei fratelli di Antiochia, sotto un segno concreto, quello della colletta. Quindi raccolgono dei fondi, li portano a Gerusalemme, perché la chiesa di Gerusalemme, più isolata rispetto alla chiesa di Antiochia e quindi più sofferente per la questione della carestia, possa in qualche modo avere un aiuto, possa in qualche modo sostentarsi. Tra l'altro va tenuta presente una cosa: chi porta la colletta a Gerusalemme sono Barnaba e Saulo, portavoci di una comunità i cui credenti provengono dal paganesimo. Se voi ricordate, a Gerusalemme, in un passaggio molto delicato degli Atti degli Apostoli, al capitolo 6, c'era stato un po' di tensione. Perché i giudeo-cristiani, cioè i cristiani convertiti dal giudaismo, abitanti a Gerusalemme, non volevano condividere i loro beni con quelli che invece non erano originari della Giudea e di Gerusalemme. E si erano chiusi. C'era stata una discussione forte che aveva poi portato all'istituzione dei famosi sette che si sarebbero occupati anche di chi non era strettamente originario di Gerusalemme o della Giudea. Ora, il segno della colletta che proviene da Antiochia, che proviene dai pagani, per mano di Barnaba e Saulo, entrambi ellenisti, perché erano giudei provenienti dalla diaspora, diventa un segno ulteriormente significativo, perché laddove Gerusalemme non era stata capace di comunione, Saulo e Barnaba lo sono, in un momento di per sé che non è che fosse obbligatorio, quella colletta non era un segno obbligatorio, ma diventerà l'emblema, il segno concreto della comunione tra le diverse chiese. Pensate che nelle lettere di Paolo, Paolo porterà sempre dentro di sé, la passione per la comunione tra le chiese, è qualcosa che attraversa tutto il suo epistolario, tutte le sue lettere. Ecco, lui porterà dentro di sé la passione al punto tale che questa colletta, la prima lui la vive con Barnaba, che noi vediamo proprio qui narrata, questa colletta sarà anche il segno per Paolo della comunione di tutte le sue chiese con la Chiesa Madre di Gerusalemme. E la colletta sarà poi anche il contesto e il motivo per cui Paolo verrà arrestato e inizierà quella pagina della sua vita segnata dalla prigionia probabilmente più lunga della sua esperienza. E lui chiamerà la colletta nelle sue lettere con nomi diversi, tutti però di un grande significato, di grande dignità. La colletta diventa una diaconia alla Chiesa, cioè un servizio. La colletta diventa una liturgia, una liturgia addirittura, cioè un atto di culto reso a Dio, dove vengono offerte le proprie primizie per il bene di tutta la Chiesa. La colletta viene chiamata coinonia, cioè segno di comunione tra le chiese, tre nomi, tre diciture che ci fanno capire come non si tratti solo di una raccolta di fondi per aiutare dei fratelli che vivono nella povertà, ma è proprio il segno della comunione tra le chiese. Quindi il narratore ci sta dicendo che nel momento in cui sta configurandosi, sta nascendo un'altra chiesa forte che avrà tutto il peso anche un peso simile a quello della Chiesa di Gerusalemme, non c'è rischio di divisione. Il rischio di divisione viene superato da tutti i punti di vista grazie all'unità tra queste chiese. E allora ci troviamo con un cristianesimo che fin dai primi decenni ha come due polmoni già. Il polmone di Gerusalemme radicato nell'ebraismo, che garantisce un'identità ben solida nella tradizione di Mosè e quindi in tutto ciò che diventerà poi il primo o l'Antico Testamento, e il secondo polmone è rappresentato dalla comunità di Antiochia, che rappresenta invece il novum suscitato dallo Spirito, laddove la grazia di Dio, la gioia e l'esortazione possono vivere, laddove l'orizzonte cristiano si apre a un oltre che lentamente sarà imboccato dai primi cristiani, soprattutto con l'ausilio di Saulo, per inaugurare la nuova esperienza cristiana. Ma teniamo sempre ben presente, Paolo non si improvvisa apostolo da solo. Paolo nasce, matura e cresce all'interno delle comunità cristiane, prima a Damasco, poi a Gerusalemme, poi a Tarso, ma soprattutto l'esperienza decisiva della sua esistenza sarà l'esperienza che lui vive ad Antiochia, insieme a Barnaba, dove per un anno intero predicano, insegnano e dove insieme partiranno per l'avventura e la missione cristiana. Ecco, cari ascoltatori, noi abbiamo terminato tutta la prima parte della nostra trasmissione. Voi sapete che è nostro uso dividere questo nostro appuntamento mensile in due parti di uguale estensione, cioè la meditazione mia di 45 minuti e poi le vostre domande di 45 minuti. Ovviamente questa seconda parte, tengo sempre a dirlo, è altrettanto preziosa quanto la prima, perché permette spesso attraverso delle domande o delle piccole osservazioni, permette di sottolineare degli aspetti che possono sfuggire nel momento in cui si medita su un brano e permettono anche di approfondire alcuni aspetti. Quindi attendo le vostre telefonate, vi invito a intervenire, raccomando di rimanere fedeli al tema che abbiamo trattato e di essere anche brevi negli interventi, in modo da lasciare più spazio possibile a coloro che vogliono intervenire. Vi ringrazio fin d'ora per il vostro ascolto e resto in attesa dei vostri interventi. Dalla regia vi diranno come contattare la nostra trasmissione. Pronto, buonasera, con chi parlo? E parlo con Maria Teresa da Milano. Volevo chiedere perché e come si sono divisi Paolo e Barnaba, il perché e quando si sono divisi, per quanto tempo sono stati insieme. Grazie. La ringrazio, Maria Teresa. La domanda punta sul momento in cui Barnaba e Paolo si sono divisi. Allora, il testo ci dice che restarono insieme un anno intero nella comunità di Antiochia, dopodiché partono per l'esperienza missionaria. L'esperienza missionaria è molto positiva fino al momento in cui succede qualcosa tra i due apostoli. Cosa succede tra i due apostoli? Allora, qui noi abbiamo una diversa versione. E quella degli Atti degli Apostoli e quella delle lettere di Paolo. Sembra che la divisione tra Paolo e Barnaba sia dettata da un intervento da parte della comunità di Gerusalemme a un certo punto della storia della comunità di Antiochia, cioè intervengono per porre alcune limitazioni alla convivenza tra i giudei provenienti dal paganesimo e i giudei provenienti dal giudaismo. Soprattutto in relazione a quelle che sono le norme di purità legate all'alimentazione. Il testo, soprattutto la lettera ai Galati di San Paolo, ci dice che prima dell'arrivo di Giacomo e di quelli della sua parte ad Antiochia, i fratelli condividevano tranquillamente la mensa senza porsi problema di quello che veniva messo sulla tavola, cioè si aveva fiducia l'un l'altro che ciò che veniva messo sulla tavola non proveniva da mercati ambigui dove veniva ad esempio venduta la carne di sacrifici offerti nei templi pagani. Va infatti tenuto presente che i sacrifici di carne che venivano fatti nei templi pagani ovviamente non comportavano il fatto che la carne veniva buttata via, la carne veniva offerta agli idoli e poi rivenduta sul mercato. E allora i giudei che provengono da Gerusalemme, vedendo i pagani che portavano la carne da mangiare, dicevano: ma da dove viene questa carne? Siamo sicuri che è una carne pura? Siamo sicuri che gli animali sono stati uccisi secondo la legge? Noi non la mangiamo. E allora, a forza di queste tensioni che a noi a distanza di tempo possono sembrare banali, ma che costituivano un elemento molto delicato della legislazione ebraica, nella chiesa di Antiochia sono nate due correnti, una che diceva dobbiamo aver fiducia gli uni degli altri, Cristo ha superato le norme di purità, gli altri che dicevano bisogna aver fiducia, ma bisogna anche rispettare la sensibilità degli altri, e Pietro e Barnaba sembrano essere di questa corrente. Saulo invece vuole spingere per superare questo aspetto. Ovviamente dietro questo discorso c'erano dei discorsi ancora più profondi che toccavano la coinonia della prima comunità. Ecco, per la lettera ai Galati è questo il motivo della divisione tra Saulo e Barnaba. Per gli Atti degli Apostoli il motivo della divisione è un altro. Dopo il primo viaggio missionario, per gli Atti degli Apostoli, Saulo propone a Barnaba di tornare a visitare le chiese, perché non basta fondare le chiese, bisogna consolidarle con l'insegnamento. Barnaba è d'accordo, ma vuole portare con sé Marco, Saulo però si oppone. Perché si oppone? Perché Marco, nel momento in cui l'avventura cristiana si inoltra in territori puramente pagani, si era ritirato durante il cosiddetto primo viaggio missionario. E la cosa a Saulo non era piaciuta, quindi non lo vuole portare con sé. Vuole portare con sé persone che sono convinte che l'annuncio ai pagani fa parte del disegno di Dio. Marco non era così convinto. Su questo aspetto c'è la tensione tra Barnaba e Saulo, ed è una tensione tale per cui i due decidono di suddividere i campi di azione. Barnaba va in territori dove ci sono persone che aderiscono al cristianesimo passando attraverso l'ebraismo, il che anche per Marco è accettabile. Paolo si dirige con decisione nel mondo pagano. Allora, più che divisione è una suddivisione di compiti, diciamo, nella rilettura, come dire, tranquillizzante, un po' più tranquillizzante degli Atti degli Apostoli. Probabilmente la verità sta tra le due cose, cioè le due cose probabilmente sono combinate, sono vere entrambi. Sta di fatto che dopo 2-3 anni di condivisione della missione, Paolo e Barnaba si suddividono. Il fatto di suddividersi non significa che i due non andavano più d'accordo, al contrario, noi sappiamo sempre dalla testimonianza delle lettere di Paolo che Marco diventerà un punto di riferimento cruciale alla fine del ministero di Paolo, il che ci fa capire che i due alla fine riescono a capirsi e a riconciliarsi, e lo stesso Barnaba passerà sempre alla storia come un grande maestro e collaboratore dell'apostolo Paolo. Grazie quindi, signora Maria Teresa, per la sua domanda, perché ci ha permesso proprio di approfondire un attimino qualcosa che avremo modo di riprendere anche più avanti. Grazie. Pronto? Pronto. Buonasera, con chi parlo? Sono Angela, chiamo da Cagliari. Mi dica, signora Angela. Ascolti, io volevo, quando leggo le lettere di San Paolo, capisco che è una cosa molto profonda, però non riesco a capire. San Paolo come fa a sapere tutte queste cose, ecco? Perché lui non è stato con Gesù, quindi mi sembra una cosa molto più, anche più profonda del Vangelo, quindi vorrei sapere, San Paolo si è ispirato da Dio, si è ispirato… Certo, la ringrazio signora Angela, cerco di rispondere alla sua domanda. Allora, prima di tutto noi dobbiamo tenere presente che quando ci confrontiamo con gli apostoli, ogni apostolo ha dietro di sé un retroterra personale, e questo retroterra personale, come dire, condiziona la loro personalità, la loro missione, i loro scritti. Saulo proviene da un retroterra molto particolare. Quando lui fa la sua descrizione pochi versetti, presentando se stesso come ebreo doc, fariseo quanto alla legge, pieno di zelo nell'osservanza di tutte le prescrizioni, ci fa capire lo spessore non solo umano di questa figura, di questo apostolo, ma tutto l'approfondimento che c'è stato dietro. Noi sappiamo che Paolo studiò, fu formato nella legge ebraica alla scuola di Gamaliele, qui ci dice, no? Quindi all'interno di una delle tradizioni più famose del primo secolo, cioè Paolo dietro di sé ha un retroterra religioso e culturale molto molto forte, a cui si unisce l'apertura dei suoi orizzonti. Tanto è zelante nel momento in cui combatte il cristianesimo per fedeltà alla sua tradizione religiosa, tanto è zelante nel momento in cui coglie la potenza straordinaria della buona notizia di Cristo. Ed ecco allora quest'uomo che non esita a confrontarsi con tutte le culture, con tutte le stirpi, con tutte le realtà. portando dentro di sé quella ricerca infinita che lo ha caratterizzato. Quindi sicuramente Paolo continua a formarsi, ad approfondire, a cercare, a confrontarsi. Lui stesso, sempre nella lettera ai Galati, ci dice che la sua ricerca su Cristo era una ricerca continua. Non contento di quello che aveva imparato, si recherà nuovamente a Gerusalemme, si fermerà a interrogare Pietro per cercare di capire sempre di più quello che era il Cristo. Ovviamente accanto poi alla ricerca personale ci sono i doni che vengono dall'alto, e nelle lettere ai Corinzi Paolo parla anche di alcuni doni che sono doni straordinari, cioè non solo la sapienza dall'alto, la sapienza che viene dallo Spirito Santo, ma l'essere elevato non per suo merito ma per pura grazia fino al settimo cielo. Ecco, questo dono di grazia di cui Paolo non osa mai vantarsi, perché è l'unica cosa di cui si vanta la sua debolezza, è sicuramente qualcosa che incide anche su quello che lui conosce e che poi trasmette nelle sue lettere. Mi permetto di aggiungere che spesso si dice che le lettere di Paolo sono difficili rispetto ai Vangeli, ma più che difficili sono un altro genere letterario, cioè un altro stile di scrittura. Un conto è lo stile di scrittura narrativo, un conto è leggere un romanzo, un conto è leggere una lettera o un saggio. Ecco, Paolo è più, come dire, spostato sul secondo genere letterario, la lettera, l'approfondimento, la dimostrazione delle cose. I Vangeli sono più spostati sulla narrazione. Questo non significa che chi narra, chi racconta secondo lo stile narrativo sia meno colto di chi utilizza la lettera o il saggio, assolutamente no, sono due diverse scelte di portare l'unico messaggio. Grazie a Dio il Nuovo Testamento è ricco di generi letterari diversi, dal Vangelo, quindi dal racconto narrativo, all'omelia, all'approfondimento, alla lettera. Al genere apocalittico, cioè ci sono le forme più diverse, tutte però messe al servizio di un unico annuncio, l'annuncio della buona notizia che Cristo si è incarnato, ha patito, è morto, ma soprattutto è risorto e ha ridato speranza ad ogni uomo e donna della terra. Grazie di cuore signora Angela per la sua domanda. Pronto? Pronto. Buonasera, con chi parlo? Tanto, buonasera. No, ascoltavo con molto interesse. Sono Giovanni da Međugorje. Quindi chiama da Međugorje, bene, bene. No, ma diciamo, ecco, no, lì mi è colpito, complimenti, perché va veramente in profondità delle cose e ne parla con molta semplicità. Vuol dire che è ispirato dal cuore, via, lo sento. È bello, mi scusi padre, mi interessava il passaggio di Paolo dopo che incontra Barnaba e dopo giustamente si prevede la carestia e tutto, e poi ecco fanno una colletta che lei ha lasciato intendere anche non solo con i soldi o con gli averi, ma anche con tutti se stessi, no? Cioè mi sembra di intendere, con la visione, ecco, con quei doni che ognuno di noi, possiamo riportarlo penso anche oggi, no? Quei doni che ognuno di noi ha e la mette a disposizione, ecco, di questo, ecco, un nuovo apostolato, lei che dice? Allora, la ringrazio Giovanni per questa sua domanda, questa sua riflessione. Sì, riprendo proprio l'elemento della colletta. È un momento, ci dice gli Atti degli Apostoli, al capitolo 11, un momento segnato da una carestia, carestia concreta, cioè mancanza di piogge, quindi mancanza di beni per sostentare la comunità. E la chiesa di Antiochia, che è una chiesa nuova, che è una chiesa giovane, decide di dare un segno concreto di vicinanza a chi è nel bisogno, manifestando anche in questo modo l'autenticità della propria fede cristiana, e lo manifesta raccogliendo dei fondi. Ora, questi fondi però non vengono mandati attraverso un messaggero, vengono mandati attraverso i responsabili della comunità, in modo da rendere presente a Gerusalemme la comunità di Antiochia attraverso Barnaba e Saulo. Questo gesto è così importante, dicevo, che per Saulo diventerà l'emblema della coinonia, cioè della unione tra le diverse chiese. Ora lei mi chiedeva, questo può essere valido anche per noi oggi? Ma penso proprio di sì, penso proprio di sì. Oggi come oggi, e del resto una delle dimensioni più forti che caratterizza la fede cristiana è proprio la dimensione della carità. Oggi come oggi la Chiesa è chiamata ad essere sempre attenta a quegli angoli del mondo che vivono l'esperienza della carestia, carestia che può assumere diversi volti. La Chiesa in genere è sempre un pochino la prima a intervenire laddove ci sono le emergenze di ogni tipo. E tra l'altro siamo anche alle soglie, alle porte di un anno giubilare che è dedicato alla misericordia, dove lo stesso Santo Padre, molto sensibile a tutte quelle che sono le emergenze sociali, ci invita a rispolverare le opere di misericordia. Ecco, potremmo dire che dietro ogni opera di misericordia c'è una piccola carestia alla quale noi siamo chiamati a dare il nostro contributo. E la colletta può assumere diverse forme, può essere una colletta di denaro, ma può essere anche una colletta di tempo, tempo da dedicare nel modo più diverso a una di queste tante emergenze, può essere una colletta di attenzione, di sensibilità, di condivisione, ognuno insomma può trovare un volto a tutto questo, però quello che mi preme sottolineare è che l'esperienza vissuta da Barnaba e Saulo non solo è un'esperienza attuale, oggi, ma era un'esperienza programmatica, cioè all'inizio di una nuova chiesa, di una nuova comunità, Antiochia. Antiochia si distingue per questo segno che la Chiesa Madre di Gerusalemme inizialmente non era stata capace di fare al capitolo 6, non aveva dato prova di questa intuizione che proviene dallo Spirito e che Barnaba e Saulo sanno imboccare subito a piene mani. Grazie quindi Giovanni per il tuo intervento e chiedo di portare tutti noi, tutti coloro che in questo momento sono in ascolto e anche chi in questo momento parla ai piedi della Vergine Maria, perché lei ci tenga sempre per mano e ci renda persone di pace, comunicatori di pace. Grazie Giovanni. Pronto? Pronto, sono Luigi da Milano. Mi dica. Pronto? Luigi. Sì, la sento bene. Volevo ringraziarla per questo fatto della colletta tra chiese. Ci capita con altri amici di sostenere in questo momento, di provare a sostenere una parrocchia siriana, una parrocchia di Aleppo che ci ha chiesto aiuto. È un aiuto economico e di preghiera, ma non ero arrivato a capire che aveva questa profondità di significato questa colletta tra chiese. Tra l'altro loro sono la chiesa antica e noi a guardar bene siamo la chiesa nuova, ma mi ha aiutato a capire il significato di comunione di questo gesto della colletta, per cui mi responsabilizza ancora di più e mi dice che oggi questa colletta tra chiese è più che mai necessaria, e la ringrazio e l'ascolto per radio. Grazie Luigi, perché questa testimonianza concreta della tua parrocchia ci aiuta a vedere come una pagina come quella di Atti 11 può incarnarsi oggi. Immagino, suppongo che questa colletta sia nata anche da una visita, no? A questa chiesa di Aleppo, o se non è ancora stata fatta nel momento in cui le situazioni anche lo permetteranno, favorire l'incontro, magari accogliendo qualcuno di là oppure voi presentandovi in zona, perché la presenza proprio anche personale è molto importante. Però ecco, lei ci ha ricordato in modo molto semplice come una colletta può concretizzarsi oggi, e mi faceva venire in mente uno dei pellegrinaggi che ho guidato in Terra Santa della mia parrocchia di origine. Io sono originario della Bergamasca. 2 anni fa insieme alla mia parrocchia siamo stati in Terra Santa e abbiamo visitato la comunità cristiana di Nablus. E da lì è nata anche, come dire, una solidarietà tra chiese in modo da sostenere con una sorta di colletta lo studio dei cristiani locali, lo studio dei giovani locali, perché possano frequentare l'università in una zona, in una comunità parrocchiale dove le cose non è che sono così semplici come da noi. Anche lì un incontro, una situazione di carestia ha fatto nascere una comunione tra le chiese, ed è molto bello anche quello che lei ricordava, la chiesa di Aleppo e la chiesa antica. Noi siamo una chiesa contemporanea, come la chiesa di Nablus è una chiesa antica e noi siamo la chiesa contemporanea. Ecco, questa dimensione è importante, riuscire a tenere il nesso con un'espressione della comunità cristiana delle origini è preziosa, perché ci ricorda le nostre radici. In fondo, come tanti studiosi dicono, noi come cristiani oggi rischiamo di dimenticare che le nostre radici sono delle radici che affondano nel mondo giudaico-cristiano. Alle origini la Chiesa era totalmente giudeo-cristiana, poi per diversi fattori storici e religiosi c'è stato questo come dire, cambiamento di identità, per cui sostanzialmente il grosso della comunità cristiana di oggi è una comunità cristiana che proviene non dal giudaismo, aderisce al cristianesimo direttamente dalle diverse tradizioni personali, ma non passano in genere dall'ebraismo. Oggi abbiamo bisogno forse di recuperare anche questa radice che ci aiuta a capire i valori di fondo che stanno alla base della nostra identità. Grazie di cuore quindi Luigi per il tuo contributo. Pronto? Buonasera padre, sono Maria da Messina, grazie delle belle catechesi, è veramente bellissima. Volevo fare notare, insomma, comunque mi ha colpito, i due missionari, insomma, quelli che erano partiti dalla diaspora e che sono andati a predicare da Antioche, che per primi, diciamo, hanno buttato il seme della parola, poi non hanno avuto, diciamo, alcuna gelosia quando sono arrivati prima Barnaba, poi Paolo, e quindi la comunità si è allargata. Cioè è bello questo fatto, loro non vengono più nominati negli Atti degli Apostoli, immagino che la bellezza di fare un servizio anche questo, cioè tu dai una parola a qualcuno e poi sei felice se poi qualcun altro più capace di te aiuta quelle persone ad arrivare veramente al Signore. Questo volevo, un approfondimento da parte sua, grazie. Grazie mille Maria per questa sottolineatura che effettivamente è preziosa, perché negli Atti degli Apostoli non è l'unico caso in cui il narratore evidenzia questo aspetto. Cioè il narratore tiene a sottolineare che al cospetto di Dio sono grandi gli apostoli, sono grandi i sette, ma sono grandi anche tutte quelle persone che circondano con o senza nome il loro apostolato. Pensate ad esempio all'episodio del famoso eunuco che abbiamo commentato, no? Eravamo al capitolo 8, se non erro, degli Atti degli Apostoli, quando ci viene narrato questo incontro tra il diacono, fra virgolette, Filippo e l'eunuco di Candace che tornava da Gerusalemme e stava tornando nella sua terra in Etiopia. E questo eunuco riceve il battesimo, riceve un'infarinatura il tempo di un incontro praticamente da Filippo, ma il testo dice che Filippo viene rapito, e cioè non ha il tempo di fare una vera e propria attività formativa. E l'eunuco cosa fa? Se ne torna nella sua terra pieno di gioia e annuncia il Vangelo a tutti. Abbiamo un annunciatore del Vangelo improvvisato, era già una persona che cercava Dio nel suo cuore, perché altrimenti non l'avremmo trovato intento a leggere il brano del profeta Isaia, ma che poi lo Spirito dice, ma questo lo voglio inviare io, non voglio che prima faccia la scuola di teologia per portare il lieto annuncio di Cristo. Quindi senza scuola di teologia, senza istituto di scienze religiose, questo è un eunuco di Candace diventa un annunciatore del Cristo e lo fa pieno di gioia. Ugualmente questi missionari di Cipro e di Cirene, guarda un po' il Nord Africa ancora, dove era finito l'eunuco di Candace, i quali venuti ad Antiochia, quindi ci viene detto che questi sono dei credenti di Cipro e di Cirene, Cipro come Barnaba, Cirene la stessa zona più o meno dell'eunuco di Candace, i quali venuti ad Antiochia cosa fanno? Si mettono a parlare i greci, facendo quello che gli altri non fanno, perché degli altri ci veniva detto che predicavano la parola soltanto i giudei. Invece questi arrivano belli belli da Cipro e da Cirene, si mettono a parlare di Gesù anche i pagani, hanno dentro di sé una libertà che nessuno si spiega da dove viene sicuramente dallo Spirito, e che susciterà in Gerusalemme una missiva, una missione di incoraggiamento e di verifica, cioè di discernimento meglio, per cercare di capire se tutto questo è veramente voluto da Dio oppure è stato un errore da parte di questi di Cipro e di Cirene. Ora, di questi noi non sappiamo il nome, però hanno fatto una cosa che ha segnato una svolta. È vero che già Pietro aveva aperto l'uscio, però l'azione di questi credenti che provengono da Cipro e da Cirene, senza apparentemente una formazione di base, ma semplicemente sullo sfondo del loro cuore, della loro fede, danno una svolta decisiva alla comunità cristiana, al punto tale da scandire questa storia con un nome, quel nome cristiani che individuirà per sempre i discepoli di Gesù Cristo. Quindi questo cosa ci dice? Ci dice che è vero, lo Spirito si serve di tutti i titolati di questo mondo, ovviamente, per guidare la sua comunità. Ovviamente i pastori delle comunità hanno bisogno di una formazione solida. Ma attenzione a non essere troppo distratti a quelle provocazioni che lo Spirito può far venire da altrove, e magari non dalle vie istituzionalmente benedette, nel senso canonico del termine, cioè lo Spirito a volte può agire laddove noi non ce lo immaginiamo. Faccio un esempio, pensate oggi alle comunità cristiane che sempre di più assumono un volto meno uniforme. Nelle nostre comunità andranno sempre più aggiungendosi, anche solo a motivo dei flussi migratori, credenti provenienti da altre tradizioni cristiane, dalla tradizione africana, dalle tradizioni del Medio Oriente, dalle tradizioni orientali, sempre cristiani, che però hanno alle loro, sullo sfondo un modo di vivere il cristianesimo diverso dal nostro. Ora questo non è indifferente, questo porterà anche, a modulare il volto delle nostre comunità cristiane, se queste sono sagge, in un modo diverso, e quindi a orientare anche il cammino in un modo diverso, arricchendole con una presenza che è molto meno uniforme e più variegata. Sta a noi ovviamente avere quell'apertura di cuore, di animo, di spirito per saper cogliere in questo un'opportunità preziosa e non quei timori che portano invece ad aprire le porte, ad alzare i muri. Grazie di cuore quindi Maria, che da Messina hai dato il tuo contributo alla nostra trasmissione. Sì, pronto? Pronto. Buonasera. Grazie di tutte le spiegazioni meravigliose. No, io ripensavo che sono stata un pellegrinaggio a Roma, so di Terni, mi chiamo Maria, e praticamente qui siamo andate alle Tre Fontane e lì mi hanno spiegato come era avvenuto queste Tre Fontane, quando hanno tagliato la testa a San Paolo. ha fatto tre balzi e sono venuti tre gorghi d'acqua. E quell'acqua è buonissima da bere, e poi quando uno si lava le mani si asciugano subito, immediatamente. E mi è molto piaciuto sentire questo, perché poi il San Paolo è stato tutto ammaestrato da San Pietro, e io penso che Dio, quando è stato il loro trapasso, non gli ha fatto sentire niente. Io penso proprio questo. Allora la ringrazio, signora Maria, per il suo intervento. No? Lei ci porta in uno dei luoghi più cari della tradizione paolina, che è la chiesa proprio delle Tre Fontane presso le Acque Salvie alle porte di Roma, un po' verso la periferia di Roma. A che cosa fa riferimento lei quando parlava del racconto nel quale, secondo il quale Paolo al momento del martirio fu decapitato e la sua testa avrebbe fatto tre balzi? Fa riferimento a un testo apocrifo. Cosa sono i testi apocrifi? I testi apocrifi sono quei testi che non sono ispirati dallo Spirito Santo, ma che contengono al loro interno dei racconti edificanti, spesso anche leggendari, che aiutano ad approfondire quella che è la nostra fede. Uno di questi atti, testi apocrifi, è gli atti di Pietro e di Paolo, nati prima in forma indipendente come atti di Pietro e atti di Paolo e poi fusi in un solo testo. In questo testo apocrifo si racconta il martirio dei due apostoli, cercando in tutti i modi di metterli in parallelo tra di loro, forzando anche un pochino il dato storico. Perché li vogliono mettere in parallelo? Per sottolineare come l'anima dell'identità cristiana debba sempre tenere presenti le due colonne, non solo quindi la figura di Pietro, ma anche la figura di Paolo. Teniamo presente che il significato degli atti, dei testi apocrifi, è sempre legato a qualcosa da difendere, qualcosa da combattere. Quindi è molto probabile che questo racconto del martirio di Pietro e di Paolo abbia sullo sfondo, prima di tutto, la tentazione di qualcuno di allontanare Paolo da Pietro e mostrarlo contro di lui. Infatti ci sono dei testi apocrifi contrari all'Apostolo Paolo. E dall'altra parte c'è il desiderio di difendere tutto quello che Paolo ha comunicato alle comunità cristiane attraverso le sue lettere. Quindi, pur nella leggenda, che ovviamente amplifica il significato e la portata della morte di Paolo, pur nella leggenda c'è, come dire, un racconto vitale da conservare. Cioè, quello che è importante nel martirio di Paolo non sono i tre balzi della sua testa, ma il significato che sta dietro il suo martirio. Cioè, il racconto tiene a sottolineare che il suo martirio è fecondo di vita. Nel momento in cui muore, sgorga la sorgente d'acqua, la sorgente di vita, a cui tutti possono attingere e ritrovare quella salute del cuore e del corpo, dell'anima e del corpo, che fa bene alle persone. Con questo non voglio dire che con il martirio di Paolo, che la sorgente non è legata al martirio di Paolo, questo non lo so, non so se è vero e non so se è leggendario. Probabilmente leggendaria il triplice balzo della testa, anche perché se uno va alle Tre Fontane e vede quanto sono distanti le tre sorgenti, è un po' difficile pensare a una testa che si mette a saltare da un punto all'altro in quel modo. Però può darsi che, come sono nate le sorgenti in diversi santuari legati alle apparizioni mariane, sia nata una sorgente anche legata al momento del martirio di Saulo. Nulla è impossibile a Dio, Dio può fare ogni cosa. Quello che però è importante per la nostra fede è quello, tenere presente il messaggio che laddove c'è un uomo abitato dallo Spirito e abitato da Dio, non c'è dono che rimanga senza frutti, e il dono supremo, che è il dono della vita, diventa il segno massimo della fecondità. C'è poi un secondo aspetto che la nostra ascoltatrice evidenziava. Lei diceva Paolo non si è formato da solo, Paolo si è formato alla scuola di Pietro. Oserei ampliare un pochino lo spettro dei formatori di Paolo. Paolo si è formato alla scuola di Gamaliele, si è formato alla scuola di Barnaba, si è formato alla scuola di Pietro e degli Apostoli e ancor di più si è formato alla scuola di tutti i suoi collaboratori. C'è una cosa molto bella che caratterizza tutto l'epistolario paolino ed è il fatto che quando noi ci confrontiamo con la figura di Paolo non lo troviamo mai da solo. Paolo non è un battitore solitario, Paolo è sempre accompagnato da collaboratori e da persone che condividono con lui l'annuncio del regno. Troviamo accanto a lui Giudei Doc, troviamo accanto a lui persone provenienti dal paganesimo, troviamo accanto a lui delle donne, troviamo accanto a lui delle coppie, tutti collaboratori senza i quali Paolo non avrebbe potuto far nascere tutte quelle comunità cristiane che lo Spirito ha fatto nascere attraverso di lui. Anzi, a volte sono proprio questi collaboratori che medieranno nelle situazioni di difficoltà con l'Apostolo, perché sapete, quando uno guida, inaugura una nuova esperienza, non è che tutti gli battono le mani, ci sono anche momenti di tensione. Ecco, questi momenti di tensione spesso vengono superati grazie alla mediazione di questi collaboratori che Paolo ha saputo costruire attorno a sé. Quindi un'azione missionaria la sua, che è il frutto di una coinonia, che è il frutto di una comunione. Ed è proprio questa l'arma vincente che permetterà anche al cristianesimo delle origini di espandersi sempre di più. Grazie di cuore quindi Maria per il tuo intervento che ci ha permesso di approfondire un altro aspetto che ci era sfuggito. Grazie. Mi dicono dalla regia che il tempo a nostra disposizione è terminato. Permettetemi quindi di salutare tutti coloro che sono intervenuti, di ringraziarli: Maria Teresa da Milano, Angela da Cagliari, Giovanni che ci chiamava da Međugorje, Luigi da Milano, Maria da Messina e l'ultima nostra ascoltatrice, un'altra Maria che ci ha arricchiti con la sua riflessione. Noi ci sentiamo tra un mese nel cuore del mese di agosto. Auguro a tutti voi una buona continuazione di serata insieme alla benedizione del cielo. Ricordiamoci a vicenda al Signore, perché il Signore renda anche noi degli apostoli dello spessore umano e cristiano di Saulo e di Barnaba. Buona serata a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.